Vorrei dire soltanto qualche parola come la mia impressione del simposio. Il simposio è stato come un mosaico variopinto. Non solo i temi delle relazioni sono stati diversi, diversi erano spesso anche i principi metodologici della partenza dei studiosi. Proprio questo promuoveva discussioni interessanti ed anche stimolanti, ed è stato spesso una sfida, per esempio, la differenza tra il punto di vista sistematico e quello storico. Siamo tutti sempre apprendisti. Ci siamo sforzati di scucire una mentalità di giubileo. Abbiamo guardato il Concilio di Trento con occhi critici in senso storico. Abbiamo visto che è un anacronismo porre questioni al Concilio alle quali non era abile di dare delle risposte. E un'altra cosa, lo svolgimento del Concilio in sé, le sue intenzioni con i suoi limiti, ed è un'altra cosa, che cosa il Concilio ha promosso e influenzato nell'epoca posteriore, spesso in un effetto laterale. Il Concilio di Trento, come tutti i concili, deve essere valutato nella sua cornice storica, anche nella sua relatività. Siamo anche stati stimolati di promuovere altri studi, ricerche sul Concilio di Trento, non perché sia una pietra immovibile nel cammino della Chiesa Cattolica e della storia del cristianesimo intero, ma perché è un testimone qualificato della vita religiosa ed ecclesiastica in un tempo incrocioso. È un grande frutto di questi giorni che abbiamo anche sentito la voce dell'ortodossia, per lo più trascurata finora. Sento alla fine un dovere di esprimere da parte mia e da parte di molti il più vivo ringraziamento per questo simposio. Un ringraziamento al collega e amico Monsignor Bronson e ai suoi collaboratori. Che avevano la fatica dell'organizzazione. Un ringraziamento alle istituzioni della provincia autonoma ed anche ecclesiastiche che hanno preparato il suolo per lo svolgimento del simposio in questa amabile città di Trento. Ma ringrazio anche tutti i colleghi per la collaborazione, sia come relatori, sia come moderatori o discutanti o traduttori. E credo di poter dire che noi tutti ritorniamo arricchiti al nostro lavoro dovunque stiamo. Grazie per le simpanze. Passiamo la parola al professor Alberico, che è tanta parte del simposio. No, è un po' accompagnato, ma adesso mi sento particolarmente in difficoltà, perché quello che ha detto il collega, amico Ganzi, è certamente in qualche modo conclusivo per quello che si può concludere un incontro che, nella misura in cui è stato vivo e fruttuoso, non sopporta conclusioni. Sarebbe ingiusto volere, fissare degli elementi in qualche modo definiti. Sarebbe impoverire una ricchezza che, perlomeno io, mi pare anche molti di noi, abbiamo percepito come tale. Anzitutto nel clima che ci ha raccolti e che è stato sicuramente estremamente gradevole, non solo per il merito dei nostri ospiti, ma anche un po' po' per la capacità che c'è stata di confronto scientifico, ma anche di confronto confessionale, abbastanza largo. Si è ricordato che per la prima volta c'era anche una voce ortodossa, della Chiesa ortodossa, molto qualificata e molto impegnata, come abbiamo ascoltato. Non è secondario, forse fa parte di uno di quegli elementi di superamento del Tridentino. Comunque, cosa ditemi rapidissimamente qualche annotazione del tutto, come dire, frammentaria, sarà subito evidente. Certamente c'è stato un apporto di rinnovamento e di arricchimento delle conoscenze su Cuccilio, delle conoscenze sugli echi, l'applicazione del concilio. Da Ganza, Rapieri, Brockman, Telecea, Proste, ma naturalmente, ecco, certamente c'è stato questo grosso apporto di conoscenze nuove, di un arricchimento reale sul piano conoscitivo, di cui dobbiamo riconoscere la matrice essenziale nella rigorosa utilizzazione del metodo. Infatti non l'ha detto esplicitamente, mi pare giusto anche ribadirlo, confermarlo. Però c'è stata anche un'attenzione ai significati, non dico il significato, ma intenzionalmente i significati del Tridentino. Certamente, ad esempio, Pesce, Damaschinos, Denara, Prodoma, anche qui senza fare delle numerazioni esclusive, ecco, hanno sottolineato da punti di vista anche fortemente diversi e perciò complementari la importanza dei significati del Tridentino, la dimensione in qualche modo nascosta che Damaschinos ha cercato di suggerire, ecco, nelle discussioni tridentine, nell'approccio tridentino, soprattutto alla teologia dei sacramenti, costituisce sicuramente una proposta suggestiva. Ma un'altra proposta suggestiva non sta ben a proposito della antropologia. Certamente Denard si è mosso su in modo pionieristico, su un terreno inesplorato e perciò doppiamente meritorio, che potrà essere suscettivo di tanti ulteriori approfondimenti e sviluppi. Paolo Prodi ha ripreso il problema della cesura costituita, abbiamo appena sentito, inutile ricordarlo, la cesura costituita nel sviluppo del diritto canonico. Dunque, certamente anche questa attenzione ai significati ha trovato dei risultati significativi. E così mi pare un terzo aspetto che per me è stato interessante, rilevante, ricco, quello delle valenze, implicazioni ecumeniche del Concilio, dove certamente Padre Prossimo ci ha aiutato, ma anche Marmo, in modo molto, molto interessante e importante. Anche qui credo che, l'ha già detto Ganza, ci sia molto stato fatto, ma molto altro può essere fatto, nella misura in cui, come dire, la percezione delle conclusioni tridentine nella loro innegabile intenzione e significato di contrapposizione alle tesi protestanti e luterani in particolare, non deve nascondere che spesso il clima conciliare, il clima dei lavori conciliari, è stato un clima molto più sereno e molto più aperto di quello che non sia appunto il tono delle conclusioni. Questo è un altro aspetto che credo sia importante. Mi ha colpito nei testi che, numerosi, ricchi testi che Percorso ha citato, sono stati quasi tutti, già accennato, testi che mostravano una conoscenza abbastanza, come dire, rozza e un po' vecchiotta, mi si perdoni l'espressione, del Concilio di Trento, accorpando Trento e il periodo post-trentino in un falò unico con scarso discernimento, e perciò qui sarebbe desiderabile e auspicabile invece una attenzione più, come dire, più puntuale, forse più raffinata. Se accanto a questi tre capitoli dell'arricchimento delle conoscenze, dell'attenzione significata, delle valenze ecumeniche, vogliamo evocare qualche uno dei nodi critici, certo il primo che viene alla mente è quello della teologia puntarale, che molti di noi hanno da diversi approcci, come dire, messo in discussione. Il problema naturalmente non è quello di andare a dare il voto a Lorz o agli Edin, che sono ecco, al di là di tutto questo. Il problema è quello di rendersi conto dei problemi che sotto questa formula affascinante da tanti punti di vista, ecco, ci sono, e sono fondamentalmente i problemi della egemonia della scolastica, non c'è dubbio, perché la teologia secolare è solo l'altra faccia della medaglia della chiarezza scolastica, che è stato detto. E questo credo sia molto importante, e prima Ruggeri accennava anche ai costi di quella chiarezza, e potremmo aggiungere anche i costi della teologia secolare, con questa formula che talora ha finito per diventare uno schermo per una conoscenza e un apprezzamento di tutta quella ricchezza che non solo c'è prima di Trento, ma c'è nel Concilio di Trento, nella vita, nell'esperienza della Asside tridentina. D'altronde non è un problema finito, non è solo un problema storiografico. Ecco, io ho l'impressione che una parte del post-Vaticano II sia dominata non dalla formula della Corona Sunkrai, ma dalla alternativa tra certezza e ricerca, e perciò in fondo è un problema forse che inevitabilmente segue la vicenda dei concili. D'altronde, su tutta la tematica concilio e post-concilio sono venute molte osservazioni, ma soprattutto oggi pomeriggio, ecco, la relazione di Prodi ha messo in luce, d'altronde insieme a tanti altri lavori che lui ha già precedentemente, ha messo in luce questa tensione estremamente interessante, forte, ecco. Mentre implicitamente, forse più nelle righe che nello sviluppo, l'altra relazione del pomeriggio, quella di Ruggeri, ha tematizzato in qualche modo il problema del superamento del tridentino, non solo del suo superamento storico, in fondo il fatto stesso delle svolte intervenute intorno agli anni 50 del nostro secolo fa testo, l'abbiamo detto e scritto ormai da 30 anni, non è certo una novità. Mentre invece è importante però chiedersi quanto continua a pesare, e giustamente lo fanno su tutti i nostri amici e colleghi, fratelli tedeschi, quanto pesa ancora nella evoluzione del rapporto ecumenico il tridentino. E veniamo all'ultimo punto, quello della responsabilità del Concilio. È stata la causa della divisione o ne è stato il notaio? Poteva un Concilio ricucire una cristianità che ormai era lacerata e consolidata in due confessioni? Forse non stiamo chiedendo, non stiamo sognando di chiedere al tridentino qualcosa che era ormai al di là. In fondo la domanda classica di Lorz, non sospè, rimane molto, molto pertinente da questo punto di vista. E certamente il ritardo del tridentino, provvidenzialmente, che si può leggere in tutte le resistenze che la convocazione ha trovato, comunque è un dato, il tempo comincia in quel 13 dicembre del 45 e non 30 o 20 anni prima, e perciò si trova praticamente di fronte alla Chiesa divisa. L'altra responsabilità, l'avallo della scolastica. L'avallo della scolastica non è plenario, non è completo, è certamente più forte, a mio modo di vedere, nelle formulazioni conclusive, nei decreti dottrinali, che non nell'equilibrio dei dibattiti. Però certamente non si può sottovalutare. Questo è anche l'altro tema che soprattutto l'onorevole Ganza l'ha trattato più che bene, quello della ecclesiologia, non ecclesiologia del Concilio. Sono anch'io convinto come lui che fondamentalmente non c'è, non solo non c'è un testo definitivo sulla ecclesiologia, perché questa è la scoperta dell'acqua calda, ma non c'è una ecclesiologia. Ecco. Naturalmente ci si può poi chiedere quali sono stati i costi anche di questo. Forse quella ipertrofia istituzionale, che qualcuno ha anche ricordato e che tutti conosciamo, del periodo post-tridentino, sarebbe stata meno galoppante se il tridentino avesse messo in paletti, per così dire, ad una concezione ecclesiologica. La storia non si fa con i sé, perciò, però certamente la tematizzazione della ecclesiologia o meno del tridentino potrebbe anche consentire qualche riflessione sull'impatto che quella carenza, per tanti aspetti, mi permetto di dire positiva, però ha avuto anche qualche aspetto, qualche eco meno convincente. E un'ultima osservazione, ecco, che forse direttamente non è uscita in modo formale da qualche relazione, forse io me lo sono sfuggito, ecco, è che in fondo, anche quando nel 51-52 c'è quella piccola e, come dire, meteora di un confronto non sui libri, non sulle proposizioni estratte da qualche scritto dei protestanti, ma un confronto così, da uomo a uomo, ecco, certamente il Concilio non conosce il suo momento migliore, non è che l'arrivo di qualche rappresentante protestante, purtroppo, ecco, inneschi né negli interlocutori cattolici né nei medesimi protestanti una capacità di avviare. Questo un dialogo, questo mi induce ad una battuta che forse stupirà qualcuno, cioè io vado convincendomi sempre più che la politica dei dialoghi dottrinali non porta all'unione delle chiese. E forse anche la piccola ma sfortunata esperienza del Tridentino può aiutare a riflettere su questo tema. È vero che i conflitti dottrinali spaccano le chiese, ma non è altrettanto vero che le ricuciture dottrinali riuniscono le chiese. È una simmetria che secondo me non esiste. E allora, per venire, finisco alla domanda del pesce, e dov'è la prospettiva nel terzo millennio? Naturalmente, meno tutti, io sono profeta. Credo che l'unica risposta non profetica che si può dare a un interrogativo, che non è solo quello del collega Pesce, ma di tutti noi, è che in fondo ha già anticipato lo massimo, si insegna. E cioè che l'esperienza, anche l'esperienza del Tridentino, è l'esperienza di una Chiesa che si convoca per tentare delle risposte, talora risposte del tutto inadeguate, vedi il Canese Quinto, ma non è l'unico caso, e talora di un'adeguazione diversa, quella del Tridentino poi neanche tanto male, siamo 450 anni, siamo qui da 3 giorni a parlarne, vuol poi dire che tutto sommato, ecco, il bilancio non è stato così catastrofico. Ma al di là di questo, voglio dire, allora forse il collega Prodi diceva un momento fa, chiedendo la sua risposta, il ecumenismo non è più un'opzione, ma è in qualche modo una necessità che abbiamo addosso. Ecco, se così è, sono io convinto che sia così, allora anche la riflessione sul Tridentino è ecco, mette un'ipoteca in qualche modo sugli anni, non so se sul millennio, ma sugli anni futuri. Quell'auspicio che formulava Damaschinos forse può concludere anche queste poche parole, cioè ecco, non che sia facile, non che sia a portata di mano, ma l'ipotesi di un concilio realmente capace di accogliere le sparse lembra cristiane è forse la prospettiva più seria, più realistica, anche alla luce dei concili passati e perché no anche alla luce del nostro Tridentino. Grazie. Ecco, vorrei aggiungere ancora qualche piccola riflessione. Io ho avuto l'impressione che questo convegno, come raramente succede, è andato densificandosi di interesse e di veramente partecipazione spirituale, partecipazione, e questo è il miglior segno. Ogni convegno ha le sue fortune e sfortune, ma ecco, se non mi inganno, questo è la miglior soddisfazione, di cui io non posso che ringraziare tutti coloro che hanno contribuito sia nell'organizzazione sia soprattutto nel peso delle relazioni, vero, sia anche nella presentazione degli elementi di contorno che hanno contribuito a dare alla riunione di Trento anche un certo tono di festività, dove il presidente del Rotary di Trento, che già la prima sera ci ha voluti con sé, ecco, anche di questo io vorrei ringraziare di cuore per quanto mi compete. Ma lasciatemi dire anche che pur avendo, cioè ho ascoltato soprattutto negli ultimi mesi molti discorsi sul Concilio di Trento, e ne ascolteremo ancora con piacere e con interesse ancora nel corso dell'anno, e tutti naturalmente meritevoli, però questa volta, per la mia personale formazione tipo di interesse, finalmente mi sono trovato a mio agio, perché il discorso non si è fermato solo sulla cosiddetta interdisciplinarità, che naturalmente è più che motivata, anzi rappresenta una ricchezza, ma sotto sotto ha continuato a sollecitare anche la riflessione in profondità verso una riflessione, chiamiamola pur teologica, o se volete usare anche un altro termine, e dico ancora una volta di più la mia spirituale soddisfazione proprio per il dialogo che Alberico ci ha aiutato ad essere. Professor Alberico, io insomma sono stato vicino a lei 30 anni fa e insomma ammiravo la sua sensibilità di storico, gradatamente io la sento anche teologicamente molto molto vicino, e la sento come un aiuto a porre queste riflessioni nel vivo della storia e della problematica, e a lei che in modo particolare, senza far torto a nessuno, vorrei esprimere in questa occasione la mia riconoscenza e la mia soddisfazione. Ecco, per quanto riguarda me, dico la verità che sono ancora soggiogato della riflessione, della discussione che abbiamo fatto ieri sulla ecclesiologia. Sulla ecclesiologia non sono capace di venirne fuori, e insomma ogni tanto c'è qualche cosa che ti afferra e che ti fa rivedere, risentire tutto in rapporto con quello. Sarà una cosa soggettiva, ma ecco, penso, sopportate che ve la confide. Ecco, anche per le cose sentite oggi, mi pare che tutto questo ha un grande valore. Se penso alle molte aporie teoriche e pratiche sui sacramenti, sia da parte degli operatori ecclesiastici, sia anche da parte di coloro, degli studiosi che affrontano il problema. Ecco, mi pare che sotto sotto ci tocca chiedere, ma c'è qualche cosa che potrebbe aiutare anche a capire perché è andata così con la gestione dei sacramenti anche dentro la Chiesa Cattolica, che sia più profondo che le semplici cause che le semplici cause sociali e così via. Io sono convinto che qui occorre andare in quella direzione, perché tutte le volte che si tocca il tema sacramenti è inevitabile riferirsi alla Chiesa, è inevitabile riferirsi alla Chiesa, ed è infallibile e fecondo ogni riferimento che tenta, anche per capire le cose, ad andare in quella direzione. Ecco, e così anche le fratture profonde del diritto, di cui abbiamo avuto una testimonianza così lucida e quasi sconcertante. Qui si tratta di semplicemente di diverse concezioni di diritto torto, cioè diverse, che a un certo punto una soppianta l'altra oppure sommerge l'altra. Ecco, insomma, è giusto, vero, soffermarsi al piano delle disposizioni e delle registrazioni e dei molti trattati. Però possiamo domandarci a un certo punto dove sta in tutte queste vicende il soggetto del diritto, dov'è la comunità, dov'è, quale comunità e che conti si fanno con questa comunità. Possiamo domandarci da profano, senza entrare nella visione tecnica, no? Se la comunità sfugge, che diritto abbiamo per le mani, no? Ecco, e così, ecco, questo concetto di Chiesa veramente mi sembra così centrale, no? Senza dubbio è un concetto che abbiamo sentito così carente in quel tempo, soprattutto inadeguato in quel tempo, e forse a questa carenza e a questa inadeguatezza è dovuta gran parte della limitatezza, della contingenza di quello che allora si è fatto o non si è potuto fare. Però una certa attenzione, malgrado la carenza dell'ecclesiologia scientifica, con le sue sfortune che nel tempo incidono, ma a quel sensus ecclesiae che esiste anche se non è chiamato tale, quella ecclesiologia latente, volcanica, elementare, se volete. Ecco, e a questo riguardo mi è venuto in mente di ancora riferirmi al famoso decreto di la bolla di indizione del primo periodo. Letare Jerusalem e conventum facite omnes qui divisi di sea. Anche se poi lo hanno adoperato per la domenica di Getare, ma era l'introito della domenica gaudete. E quell'uomo che certamente ha infiorato questo discorso in termini poetici, retorici, diremmo anche un po' gonfi e barocchi, cioè l'oratore del giorno, Cornelio Musso, il vescovo di Tonto, ha sentito molto questo tema. Ha sentito molto questo tema, chiama concilio, raduna un concilio, questa è la voce profetica. Ecco, mi aiuta di più a capire la cosa, questo riferimento a questa voce che indubbiamente allora si è elevata anche con moduli retorici, non c'è dubbio, e che però proprio anche nella retorica, anche il genere letterario dei profeti, tante volte è un po' retorico. A distanza di anni forse lo si capisce di più. Jerusalem credificatur civitas, cuius participatio eius imid ipsum, diceva traducendo maledettamente dall'ebraico, no? Participatio eius imid ipsum. E dito auto, dice il testo degli Atti degli Apostoli, insieme, sul sangue, la comunione ecclesiale, percepita come meglio si può e si vuole, forse è quella che ci è più tanto un po' raccontare, eppure in questo umbruch profondissimo di cui Ruggeri ci ha ben aiutati ad accorgersene, no? E che verrà senza dubbio, insomma, sarà prima o dopo dell'anno 2000, io questo non lo posso dire, ma ci siamo dentro a rischio e pericolo, e anche a rischio di non sopravvivere se non lo si condivide, ecco, sarà probabilmente l'ancora di salvezza questa idea della Chiesa comunione. Ho provato anch'io a pensare alla domanda del professor Pesce nell'incontro al terzo millennio. Grazie ancora a tutti, stiamo insieme ancora stasera. Grazie.